32 minuti primi, torniamo in diretta con una compagna appunto per avere notizie più recenti sulla situazione di Giorgione, nostro compagno arrestato in Valsusa, nostro compagno nel senso di compagno romano, arrestato mercoledì scorso in Valsusa e poi appunto dopo qualche giorno alle Vallette il GIP ha deciso per la scarcerazione dei domiciliari a Roma. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Eccoci. A tutte e tutti. Ciao. Purtroppo dobbiamo risentirci anche quest'anno di ritorno dalle vacanze per chi le ha fatte, e purtroppo con notizie riguardanti la repressione, perché appunto la lotta contro il PAV è andata avanti in questo agosto, e purtroppo appunto la scorsa settimana durante una delle mobilitazioni organizzate dal movimento Notav, appunto, è stato purtroppo fermato il nostro compagno Giorgio e tratto in arresto. Quindi purtroppo sì, ci ritroviamo qui di nuovo a parlare di repressione delle lotte, di repressione contro una popolazione che insomma sta ricevendo il sostegno di tantissimi da tutta Italia. Per questo insomma Giorgio è lì con loro a sostenere questo percorso e purtroppo si è ritrovato in questa situazione. Ora tutto da chiarire, perché poi ovviamente, come potete ben immaginare, nessuno di noi ha avuto la possibilità di parlare con lui. Lui è stato arrestato lo scorso mercoledì, appunto il 24 agosto, mentre c'era l'ennesima iniziativa di battitura alle reti che circondano il fortino di Chiomonte, mentre appunto la popolazione locale continuava a opporsi all'allargamento del cantiere, e in un contesto appunto ancora a noi poco chiaro, poco per cui c'è difficile capire come è avvenuto appunto questo arresto, Giorgio è stato fermato, è stato arrestato e portato alle Vallette, e lo scorso venerdì si è svolto il processo per direttissima, per cui il GIP appunto ha deciso di poi metterlo ai domiciliari. Quindi ora si trova a Roma. Ovviamente purtroppo le misure cautelari sono comunque molto pesanti, per cui si trova in una situazione di restrizione completa, per cui non ha possibilità di comunicare con nessuno se non con praticamente la famiglia che in qualche modo lo ospita, ha dato la disponibilità per tenerlo con sé ai domiciliari, e quindi c'è molto difficile, insomma speriamo anche che in questo momento in qualche modo ci stia sentendo, e quindi ne approfittiamo eventualmente anche per salutarlo e mandargli il sostegno, immagino, di tutti e tutte le compagne che si ascoltano Onda Rossa, perché appunto era lì a lottare contro il TAV, e come molti di noi hanno fatto in questi mesi, come tutti quelli del movimento Notav hanno fatto da 20 anni e più a questa parte, e l'unica risposta che arriva ovviamente è quella della repressione. Non è possibile contestare, non è possibile agire, l'unica risposta, non arrivano risposte se non appunto quelle dell'imposizione di un cantiere, la forza militare che occupa i territori e poi appunto la repressione. Quali sono i capi di imputazione? Allora, i capi di imputazione, purtroppo anche questo c'è da dire, che Giorgio si trova a essere, credo, spero di non sbagliare, ma insomma sono abbastanza sicura, praticamente è purtroppo uno di quelli che sta, rischia di pagare più di tutti, nel senso che sicuramente è uno di quelli che sta a su di sé le misure cautelari più pressanti di tutti quelli che negli ultimi mesi sono stati fermati, tratti in arresto e poi rilasciati eventualmente durante le mobilitazioni. Sicuramente sta appunto alle misure cautelari più pesanti, e i capi di imputazione anche, perché è accusato di concorso in resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e di porto di arma esplodente. Anche qua ovviamente accuse assurde, visto che ancora non ci è dato sapere il modo, il luogo, il come è stato fermato, in quale situazione, in una situazione che comunque era sicuramente relativamente tranquilla, e appunto che non crediamo affatto che lui si sia trovato in situazioni. Quindi ovviamente, come al solito, loro usano questa misura dell'accusare un soggetto singolo di lesioni aggravate, quindi ci sono guardie refertate, insomma in maniera anche piuttosto pesante a quanto ci dicono, a quanto risulta dalle carte, per cui ovviamente insomma ci sembra assurdo che Giorgio si sia da solo ritrovato in un contesto così assurdo e abbia neanche fosse un supereroe insomma in qualche modo. Quindi insomma ci rendiamo conto che come al solito si sono accaniti su di lui, l'hanno preso da solo, l'hanno insomma probabilmente anche seriamente malmenato nei giorni in cui, nel momento in cui è stato fermato e nei giorni successivi. Il problema è che purtroppo ovviamente ci troviamo anche a seguire una situazione legale a distanza, perché solo adesso è riuscito in qualche modo a fare la nomina all'avvocato del movimento Notav, quindi purtroppo solo fra qualche giorno riusciremo ad avere le carte, a capire che cosa può essere successo, quali sono le imputazioni reali, quali sono le carte, le prove che eventualmente hanno in mano, video, immagini, insomma purtroppo siamo ancora in questa fase di assoluta confusione nella quale però insomma l'unica certezza che abbiamo è che appunto ci troviamo in una l'ennesimo caso di accanimento verso un singolo, ma che rappresenta un accanimento verso un movimento appunto di difesa di un territorio da un sopruso allucinante come il SAV. E si sa quando ci sarà la prima udienza? Com'è la situazione delle date? No, purtroppo appunto siamo nella situazione in cui non si sa niente nulla, neanche sulle date, okay. Nel senso che i domiciliari quando vengono dati sono fino al processo che non è stato ovviamente ancora fissato. Siamo in attesa che appunto ora che ha ricevuto la nomina l'avvocato Novaro di Torino, che poi magari nei prossimi tempi saremo in qualche modo costretti ad ascoltare magari anche tramite la radio se sarà disponibile, dovrà fare poi il ricorso per il Tribunale delle Libertà e quindi cercare di capire se perlomeno, visto i suoi insomma anche i suoi impegni sociali e lavorativi eventualmente, potrà avere una limitazione di queste restrizioni così pesanti, quindi se ci potranno essere un altro tipo perlomeno di restrizioni alla sua libertà, se potremo scendere almeno a livello delle firme, se potremo, insomma è tutto ancora purtroppo da capire. È ovvio che i tempi sono lunghi, fare un ricorso nei giorni immediatamente successivi all'arresto non è possibile, non è sensato, siamo costretti quindi ad aspettare anche per capire appunto dalle carte qual è la situazione giudiziaria nella quale si è ritrovato purtroppo Giorgione. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è continuare insomma a essere sicuramente determinati nel sostenere la lotta del movimento Notav, di continuare a farlo magari anche nella città di Roma, anche se siamo lontani, ovviamente queste grandi opere come dire non sono mai così lontane, soprattutto il movimento Notav ci sta insegnando tanto, ci sta dando tanto in questo momento anche come movimento, e quindi è importante continuare a sostenerlo, così come stiamo facendo con tante battaglie per i beni comuni e per la difesa dei territori, e ancora di più adesso lo faremo anche perché appunto la repressione ha colpito uno di noi che appunto era andato fin lassù per lottare contro Stroteno, come dice lui nelle dichiarazioni che ha fatto ai giornali. E quindi guarda, ti ringraziamo e approfittiamo un'altra volta per mandargli un grande abbraccio di solidarietà da tutta la radio, da tutti i compagni in ascolto di Radio Onda Rossa. Quindi un saluto a Giorgio, se è in ascolto, sperando che si riappropri completamente della sua libertà al più presto, e ti ringrazio insomma di questo aggiornamento, almeno abbiamo esatto, un po' di notizie fresche, quantomeno perlomeno di mantenere alta l'attenzione sulla sua storia, di fare in modo che appunto quanto prima possa tornare a essere libero lui, così come tanti altri, e continueremo appunto a organizzare iniziative e a raccontarle attraverso questa radio. Ok, allora un abbraccio e a prestissimo. A presto, ciao, grazie a voi. Ciao.